su non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Mi insegnerò l'amore, a recitar le preghiere, la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e poca sta pena per me, perciò smettetela di protestare e non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey! Abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila. E buonasera a tutte e a tutti dai microfoni di Radio Onda Rossa. Torniamo in voce per la trasmissione che ormai, come di consueto, tutti i martedì dalle 16 alle 17 trasmettiamo dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, che è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. Partiamo dandovi i nostri recapiti. Innanzitutto il telefono, se volete intervenire in diretta, lo 06 49 17 50, che è il telefono storico di Radio Onda Rossa. Se vuoi far parte delle persone serie, hey! Hey! Radio Onda Rossa, che dal 77 nell'etere di questa città, senza padrini, senza padroni, senza pubblicità e senza partiti, quindi chi ha bisogno di tutto e tutti noi per sopravvivere, perché non si campa d'aria? Prendi la strada giusta e non sgarrare, se no puoi... E quindi 6180 4001, il conto corrente postale che va intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56, 00185 Roma. A qualche cosa devi può rinunciare. Ma visto che abbiamo avuto accesso alla modernità, potete anche andare su www.ondarossa.info e cliccare su Sostieni e scoprire le altre forme per sostenere questa radio. Se proprio non trovi niente da fare, non fare la... E vi ricordiamo anche che è uscita Scarceranda 2013, che trovate qua in via dei Volsci 56, nella sede della radio, negli studi della radio, ma che trovate anche in tutte le iniziative di movimento da qui in avanti. Detto tutto ciò, vi diciamo anche gli altri riferimenti di questa trasmissione, oltre al 49 17 50 per intervenire in diretta, anche una mail che è oradibuco@ondarossa.info e il blog su cui potete riascoltare le trasmissioni precedenti, leggere alcuni documenti, anche vedere foto e anche video. Potete andare su oradibuco.noblogs.org. Ma entriamo subito nel vivo, perché ci siamo lasciate martedì 17 alla vigilia dello sciopero generale che appunto era stato convocato dai COBAS, a cui erano corsi dietro anche in parte la CGIL, lo scorso mercoledì il 14, e giornata che ha interessato moltissimo la scuola, sia perché che al corteo COBAS la parte di lavoratori e lavoratrici che erano presenti in gran parte erano lavoratori e lavoratrici della scuola, almeno per quello che io ho potuto vedere. Ovviamente c'erano anche COBAS Sanità e altre realtà, ma la scuola, tirata probabilmente da un percorso che è in atto in questo momento, era ampiamente presente. Ma soprattutto io direi che quel corteo del 14 è stato caratterizzato soprattutto da un'oceanica presenza studentesca, un'onda in piena di studenti universitari e medi, ma soprattutto medi, che ha attraversato questa città, che ha trovato anche mura piuttosto ostili contro cui andare a sbattere, carattere, e, però insomma diciamo che si può anche dire qualcosa al di là, insomma, del comportamento della polizia, dell'epilogo, diciamo, del corteo, andando a dire quello che invece è stato quel corteo, innanzitutto, e partendo dal per me dal dato più impressionante, cioè dai numeri degli studenti e delle studentesse in piazza, dalla determinazione e dalla chiarezza di intenti con cui questi ragazzi e queste ragazze erano là, e poi da un dato veramente importante, e cioè della grande presenza di scuole, di studenti e studentesse che venivano dalle periferie di questa città, dalla provincia di questa città. Non era una manifestazione dei licei blasonati del centro storico di Roma, ma era una manifestazione in cui Pomezia, Velletri, Ostia, i Castelli e tanti tanti altri posti che a me in questo momento non vengono in mente hanno portato in piazza una determinata voglia di lottare, cioè questo si vedeva. Ci dicevamo forse anche perché la crisi fortissima, i tagli pesantissimi che stiamo vivendo in questo paese si sentono di più a Pomezia che in via Giulia, questo sì, ci siamo detti. Questo sicuramente, infatti una lettura di questa composizione sia in piazza sia anche nel grande numero di occupazioni che si stanno moltiplicando per quello che ci riguarda, poi pensiamo sarà così anche nel resto d'Italia, ma comunque in Roma e nella provincia di Roma, è proprio il riflesso della provenienza sociale, chiamiamola così, di questi ragazzi e ragazze. Anche perché mentre precedenti mobilitazioni, anche studentesche, per non parlare dei docenti e delle docenti, si sono spesso focalizzate sulla questione dei saperi, forse dicevamo prima sorridendo fra di noi, adesso c'è il problema dei sapori, cioè di che cosa mettere sotto i denti. È evidente che chi viene da determinati strati sociali vive la crisi in un determinato modo, ovvero ha probabilmente a casa uno dei genitori che magari è licenziato, è cassa integrato, cioè si vede anche nella vita quotidiana della famiglia il taglio a tutta una serie di cose, senza magari arrivare proprio alla spesa, ma in alcuni casi sicuramente si arriva anche alla spesa quotidiana. Quindi questo ragazzi dai 14 anni in su non possono ovviamente non vederlo, sicuramente vengono coinvolti e coinvolte in questo tipo di problemi, e quindi è quello che io credo si è visto in piazza il 14, è proprio una consapevolezza che il problema non riguarda, anche se da qui parte la scuola di sé per sé, ma è soltanto uno degli aspetti di un problema evidentemente più largo e che ormai attraversa tutta la società. Rispetto a questo bisogna dire che anche in questo movimento, chiamiamolo così, di docenti, che è nato sulla questione, soprattutto non dobbiamo avere timore a dirlo, sulla questione del paventato aumento dell'orario di lavoro a 24 ore, poi appunto rientrato, come era anche prevedibile per tutta una serie di considerazioni, beh, questo movimento pur eterogeneo si è comunque trovato un po' spiazzato nel suo insieme, secondo me, rispetto alla partecipazione di studenti e studentesse. C'è un atteggiamento che è invece, che secondo me è quello che poi si riflette nelle elezioni in piazza, no? Rispetto a mobilitazioni di questo genere, a parole d'ordine di questo genere, mettersi a fare la lezione in piazza, quasi a rivendicare un modo alternativo di insegnare, in risposta poi evidentemente anche, nemmeno in maniera molto poi sottile, alle occupazioni che, dicevo, si stanno moltiplicando, certamente è quantomeno un modo di vedere la questione abbastanza miope. Fra l'altro le lezioni in piazza le fanno, per esempio, le fa il Tasso, non mi ricordo se le fa il Mamiani, non vi offendete se non Albertelli, che però è un liceo già particolare, insomma, io non lo metterei tra quelli blasonati, un po', anzi ha guardato pure con un po' di sufficienza dai licei del centro, che pensano di essere duri e puri, parlo ovviamente dei docenti, duri nel senso che qui si studia sodo, e chi non ce la fa o non c'ha voglia di fare niente se ne va all'Albertelli, perché girano fanno pure questi discorsi, insomma, no? E quindi c'è anche tutta la questione occupazione sì, occupazione no, e quindi anche l'atteggiamento che abbiamo anche, insomma, mi sembra ne abbiamo parlato abbastanza all'interno della trasmissione, di docenti che rispetto alle occupazioni passano dal tono paternalistico a quello di aperta condanna e che soprattutto comunque vogliono mantenere una autonomia che veramente abbastanza incomprensibile di mobilitazione rispetto a quello che poi fanno gli studenti. In un momento in cui si allarga, come ho detto prima, a una serie di tematiche che coinvolgono veramente tutta la vita delle persone in pieno, questo tipo di arroccamenti secondo me hanno poco senso. Sì, tornando alla manifestazione, al corteo del 14, almeno qui a Roma, appunto piaceva sottolineare il fatto che è passata proprio come una manifestazione della scuola, no? Mentre è uno sciopero europeo. Quindi questo, a mio avviso, come dire, significa che paradossalmente sono scesi i figli, no? E le figlie in piazza, forse al posto dei genitori, perché questi figli e queste figlie abbiamo visto come dall'inizio della protesta dentro la scuola ai licei si sono aggiunti tutti i tecnici, gli istituti professionali e quindi è passata correttamente l'informazione che stavano colpendo i lavoratori della scuola, esattamente come i lavoratori di tutti gli altri settori, e poi con l'aggiunta, l'aggravante se vogliamo, della scuola che è il futuro del paese. Quindi la presenza della scuola è stata massiccia, quella degli studenti è stata massiccia, la cintura metropolitana ha risposto in maniera incredibile. Era stata preparata questa manifestazione già col corteo del sabato precedente e lì anche c'erano stati molti studenti, il coordinamento delle scuole di Roma aveva organizzato e quindi diciamo è proseguito. Quindi io credo, tralasciamo un attimo l'epilogo, che sia stata una bella manifestazione. Finalmente gli studenti sono scesi. È bella finché è durata. Finché è durata. Finché è durata. E, sì, per molti era la prima o la seconda manifestazione, quindi c'erano i quattordicenni, i quindicenni, di tutte appunto le estrazioni sociali, di tutti i tipi di scuole e ognuno col proprio anche vissuto, se vogliamo, familiare oppure scolastico, di collettivi già più, come dire, preparati, mentre magari altre scuole che si sono unite, io penso sempre allo Spezzone per esempio di Pomezia, che manifestava come se andassero allo stadio, questo l'abbiamo notato, no? Con degli slogan che identitari quasi, no? della loro provenienza. Ma questo va bene, nel senso che probabilmente l'aspetto positivo è che finalmente i ragazzi di 15 anni, di 16, 18 anni stanno un pochino prendendo consapevolezza del mondo che li circonda. I docenti si sono mischiati, quasi confusi, no? Dentro al loro a colorato, alla gioia dei ragazzi, che poi si è spenta con quel finale che anche da questi microfoni è stato ampiamente raccontato. E non so se vale la pena raccontare il fatto che per esempio Pomezia è balzata all'onore delle cronache il giorno dopo. Sul Manifesto è uscito questo piccolo articolo, questo trafiletto che raccontava come i carabinieri di Pomezia abbiano controllato, siano andati nelle scuole di Pomezia. E paradossalmente dicevamo che Pomezia aveva l'unica rappresentante istituzionale con tanto di fascia tricolore, che poi si è scoperto essere l'assessora alla cultura di Pomezia, scortata da due vigili, due rappresentanti della polizia municipale. Questo è stato piuttosto bizzarro, però per dire, non so, la modalità che questi studenti di tutte le scuole di Pomezia, quindi dal liceo, dall'Ipsia, all'istituto d'arte, eccetera, come si sono organizzati. Beh, la notizia che i carabinieri abbiano fatto un giro per tutta la giornata dentro le scuole, che erano praticamente vuote, per vedere, a loro dire, controllare l'ordine pubblico, questa è stata, come dire, la loro confidenza che è stata fatta, è strano, ci siamo informati e i dirigenti o i collaboratori dei dirigenti che abbiamo interpellato hanno confermato questa versione dei carabinieri, che quindi sono andati nelle scuole, sono entrati, hanno visto che aria tirava, cioè il deserto, e quindi non si sono più preoccupati di eventuali occupazioni di scuole, ripeto, vuote, e se ne sono andati. Il giornale, in realtà, il manifesto racconta che invece volevano informazioni sui docenti che hanno partecipato allo sciopero e su anche semmai gli studenti che hanno partecipato allo sciopero. Quindi sul nostro blog potete vedere le due foto, la foto dei lacrimogeni che non si sa da dove siano stati sparati e certamente a chi erano, no, forse erano indirizzati direttamente al ministro, alla finestra del ministro, se è partito da terra, quindi un colpo sbagliato. E poi anche questa notizia, c'è un'altra manganellata alla Costituzione, se vogliamo, al diritto di sciopero, al diritto di riunirsi, sono tutti gli articoli che poi magari gli studenti e i professori possono studiare insieme per vedere, non so, l'epilogo di questa manifestazione, quali, ci sarà la giornata, no, dell'inno di Mameli, è stata istituita la giornata, lo studio a scuola dell'inno di Mameli, magari se si trasforma nello studio della Costituzione, degli articoli della Costituzione che non vengono rispettati, vengono violati anche durante le manifestazioni. Io volevo, scusa, vai. Volevo dire solo brevemente che insomma in questo è anche un momento, come dire, adeguato per questa cosa dello sciopero, perché per quello che sento insomma si sta discutendo un patto sulla produttività che come dire, almeno nelle intenzioni dei suoi estensori, qui si parla di settore privato, non di settore pubblico, la fortissima limitazione del diritto di sciopero pare sia proprio al centro di questo patto di produttività, perché evidentemente per essere produttivi bisogna essere degli schiavi. Questo è, questo è stato firmato dalla CISL. Comunque volevo tornare, per evitare equivoci, alla questione dei licei paludati, perché non vorrei che qualcuno magari pensasse che noi tiriamo su i licei, le scuole insomma di periferia, e schizziamo, come si dice a Roma, o schifiamo quelle, insomma, non è questo, non è rivolto assolutamente a studenti e studentesse che stanno occupando, pur tra mille difficoltà, perché molti dei docenti e delle docenti che almeno formalmente hanno fatto, tanto quello non costa niente, un comunicato dal collegio dei docenti, ma che poi si sono guardati bene dallo scioperare, per esempio il 14, e quindi con veramente intrusioni veramente fuori dal mondo all'interno delle assemblee studentesche che stavano decidendo occupazioni o meno. Questo per esempio è successo al Tasso, dove il vicepresidente è andato a intervenire dicendogli che cosa dovevano fare, insomma cose veramente intollerabili e intimidatorie. Sono occupati questi licei, c'è il Manara, c'è il Tasso, c'è il Righi, c'è il Mamiani, l'Albertelli che diciamo prima, insomma sono diversi di questi licei, quindi non è questo il problema ovviamente di studenti e studentesse che occupano. Oggi insomma c'è poi questa assemblea generale cittadina alle 5:30 proprio al liceo Tasso, che è tuttora occupato, dove confluiranno poi studenti, studentesse, docenti eccetera, anche e non solo, per parlare di quello che si prevede per sabato prossimo. Quello che, ripeto, mi ha lasciato abbastanza perplessa, per non dire altro, so questo atteggiamento delle lezioni in piazza, addirittura con insomma, vecchi tromboni come Alberto Asorrosa, che nel 77 insomma dovette fuggire a gambe levate all'università dietro le pernacchie, niente di particolarmente brutale, di studenti e studentesse che occupano l'università. Asorrosa è il teorico delle due società, se qualcuno se lo ricorda più attempato, cioè che all'epoca proprio teorizzò le due società, quella dei garantiti e quella dei non garantiti, per quasi a dire vabbè, questi ciao, vi saluto, sono problemi vostri, insomma, adesso senza approfondire troppo, anche perché è parecchio che non me lo rileggo. E quindi andare a fare i bravi, i primi della classe, capito? Tutti in piazza a fare lezioni, che non sai, per non perdere nemmeno un'ora di lezione, ci mancherebbe altro, Questo che io volevo insomma un po' stigmatizzare, ecco, soltanto questo aspetto. Di fronte invece, come dicevi tu giustamente, va rimarcato, sono scesi 50.000 studenti in piazza in uno sciopero indetto da, da una confederazione di sindacati europei. Non tanto, secondo me, sì, era un'occasione per scendere in piazza ovviamente, ma anche molto consapevolmente che non era una manifestazione studentesca in quanto tale o come tale fin qui intesa. Che poi ci sarà sabato. No, io volevo sottolineare una cosa un po' divertente che però rientra in questa discussione ed è quello striscione apparso alle finestre dell'istituto Leonardo da Vinci in via Cavour mercoledì, e c'era Leonardo da Vinci occupato in modo costruttivo. La foto è sul nostro blog. Questo è molto divertente, è la più bella battuta che io non abbia mai sentito, la più bella slogan di una manifestazione. Non lo so, forse... I dubbi, no? Che noi docenti ci facciamo sulla legalità, adesso forse parleremo di questo, li trasmettiamo pari pari a degli studenti dicendo vabbè, ti faccio occupare però in modo costruttivo, oppure suggerisco io quali sono le cose di cui devi parlare, gli approfondimenti. Mi pare una cosa un po' così sciocca, ecco. Non so se vogliamo approfondire questo tema sulla legalità e poi sicuramente faremo anche una corrispondenza con gli studenti che appunto stanno per aprire l'assemblea al Liceo Tasso, perché vorremmo parlare non soltanto di mercoledì scorso ma anche e soprattutto nel proseguo di queste mobilitazioni e quindi il sabato prossimo. Come dire, la citazione della legalità nasce dal fatto che nel momento in cui si vuol portare avanti delle lotte condivise tra studenti, docenti, tutte le parti, ATA e anche le famiglie, i genitori degli studenti, scoppia il bubbone, gli studenti occupano e una parte dei docenti ritiene che non soltanto di non condividere questa forma di lotta, il che è del tutto plausibile, insomma non è che tutti condividiamo tutte le forme di lotta, ma come dire, di doverci anche opporre, di doverci sopporre in nome della legalità. Ora questo discorso della legalità io non lo vorrei neanche tirare tanto avanti, ma quello che a me sinceramente innanzitutto ha colpito è la sproporzione tra l'altisonanza del problema della rottura della legalità e l'oggetto di cui si sta parlando, cioè l'occupazione delle scuole, da una parte, e dall'altra la difficoltà di noi docenti a rispettare l'autonomia e le forme di lotta scelti dagli studenti e dalle studentesse. Al di là che ovviamente la mia e quella, credo, della trasmissione L'Ora di Buco, solidarietà, vicinanza a tutte le occupazioni, in tutte le scuole di questa città e altrove, ovviamente l'avrete capito da quello che abbiamo detto fino a qua, c'è. Però c'è anche un dibattito che, insomma, qualcuno ci potrebbe anche rispondere allo 06 49 17 50 sul perché ci si sente così chiamati in causa da ciò che è, da una forma di lotta che è illegale. Al di là che poi c'era anche un collega nella mail list del coordinamento che faceva notare che non è neanche così vero che è illegale, che ci sono sentenze della Corte Costituzionale che hanno messo in dubbio questa versione, perché gli studenti sono a casa loro, nella loro scuola, in qualche modo. Io prima di mandare uno stacco magari volevo tornare sulla questione dei licei paludati, scusate, capito? Ancora? Sono monomania... No, per la questione della stampa. Sì, sì, ma prego. Ma il tema è sondato? No, non è sondato, è sodato il tema. E mo la Fornero deve mettere pure lui nei fondi. No, la questione è che se leggete la stampa, soprattutto la stampa cosiddetta illuminata, Repubblica in testa, se succede qualche cosa a una scuola di periferia o dove non ci vanno i loro figli, perché è inutile che in queste scuole ci vanno i loro figli. Una volta andavano tutti al Mamiani i figli dei giornalisti, mo si sono spostati tutti al Tasso, non si sa perché. Subito vanno, cioè succede veramente una cagata di mosca al Mamiani, al Tasso, al Visconti non si sente, non si sa che fine ha fatto, e vanno tutti lì, e per cui trovate pagine su pagine. C'è stato un flash mob, chiamiamo orrendo termine, di sette o sei ragazze che domenica sono andate in una piazza Barberini deserta a fare un flash mob contro la legge Aprea. C'erano le foto su Repubblica.it, insomma, vabbè, questo punto, chiudo sui licei paludati. Chiudi o, dai, o annunci, perché in realtà, appunto, proprio per tornare alla questione, a Ostia si è occupato per 15 giorni e io non credo ci siano stati molto giornalisti. Subito dopo che ha occupato il tasto, addirittura pare che stasera ci sia ambientata là una trasmissione della RAI, insomma, si sta parlando di Ballarò, che trasmette da dentro il tasto occupato. Come dire, io credo che il problema sia A, che i giornalisti hanno evidentemente i loro figli che vanno lì, e B, che i giornalisti non alzano mai il culo dalle loro scrivanie per andare a vedere cosa succede, come dire, oltre le loro finestre. Credo che questo sia l'altro problema. Detto questo, manderei uno stacco musicale che, come dire, ci è piaciuto molto. Lui cercava per il mondo la famiglia e di notte lavorava alla candela. Difendeva sempre il nome dell'Italia e la nonna dai briganti proteggeva. E saliva sopra gli alberi più alti per pigliare al volo colpi. Ce n'eran molti, scalzi e laceri, eppure eran felici. E parlavano di lui, scrivevano di lui, lo facevano più bamba che bambino. Parlavano di lui, scrivevano di lui, sì, ma lui rimane sempre clandestino. Il suo nome sia teppista, ricchettone, criminal, provocatore. Pare che ami travestirsi da sinistra, ma sia un docile strumento del terrore. E lo beccano ogni tanto che si buca, o maneggia un po' nervoso una pistola, lancia da una moto sempre in fuga una molotov sull'uscio della scuola. Ora parlano di lui e scrivono di lui, lo psicologo, il sociologo, il cretino. E parlano di lui e scrivono di lui, ma lui rimane sempre clandestino. Se ci fosse più lavoro, se il quartiere somigliasse meno a un lager, non farebbe certo il cercatore d'oro, assalendo il fattorino delle paghe. Ma è la merce che c'è entrata nei polmoni e ci dà il suo ritmo di respirazione. Il lavoro non ci rende mica buoni, ci fa cose che poi chiamano persone. E se parlano di lui, se scrivono di lui, è che il nostro sogno è ancora piccolino. Se parlano di lui e scrivono di lui, è che il nostro io ci resta clandestino. Ci resta clandestino. Stavamo cercando di entrare in comunicazione con appunto gli studenti e le studentesse che stanno preparando l'assemblea di oggi pomeriggio. Volevo dire, rispetto a quello che dicevamo appunto sulla partecipazione di studenti e studentesse, sull'evoluzione, involuzione, chiamiamola così, di alcune parti di questo movimento di docenti che è nato un po' dopo l'annuncio che si sarebbe portato l'orario di lezione a 24 ore, che gli studenti su questo hanno le idee abbastanza chiare. Stamattina c'è stata una trasmissione proprio qui dai microfoni della radio, non nemmeno programmata più di tanto, di studenti del Gaio Lucilio, che è questo queste due o tre sezioni, non so bene, di liceo classico appoggiate all'Istituto Superiore di Piazza Indipendenza in Machiavelli, che stanno occupando e hanno ritenuto autonomamente di venire in radio e di appunto di esporre i motivi della loro lotta in modo abbastanza chiaro e semplice, soprattutto perché anche il linguaggio, secondo me, è importante, il linguaggio di chi veramente si affaccia alle lotte sull'onda, sulla motivazione delle proprie difficoltà e delle proprie contraddizioni reali. E loro rimarcavano come, insomma, senza nemmeno troppo calcare la mano, come in effetti i professori si fossero mossi proprio su questa cosa delle 24 ore, perché prima, diciamocelo, insomma, nelle scuole, dal punto di vista di lavoratori e lavoratrici, per prenderla un po' alla larga, non è che ci fossero state tutte queste mobilitazioni. Io mi ricordo qualche anno fa che ci fu, non so se era la riforma Moratti, credo fosse quella Moratti pre-Gelmini, ci furono delle assemblee in una scuola del centro di Roma, tanto per non rifare sempre gli stessi nomi, di docenti che produssero anche una serie di documenti, ma poi la cosa è finita là, anche perché era tutta molto incentrata su questa autoreferenzialità di detentori e detentrici di un sapere non meglio definito, e la cosa è morta là. Adesso questi studenti che stamattina c'erano qui in radio, questa cosa, insomma, ce l'avevano abbastanza chiara, e su una domanda precisa, ma i vostri genitori che dicono, hanno risposto i nostri genitori, ci dicono vai occupa che tu il futuro non ce l'hai, insomma, ma la frase non sarà esattamente così come la riporto, ma il concetto è chiaro. Quindi sono anche abbastanza appoggiati e appoggiate anche dai genitori che, ripeto, vivono le stesse contraddizioni e sicuramente sono molto molto preoccupati e preoccupate per l'avvenire dei propri figli e delle proprie figlie. Sì, infatti, e tornando proprio al discorso della manifestazione, e in parte è già stato detto, ma mi piaceva anche sottolinearlo, è vero che una parte della rappresentanza degli studenti, una parte degli studenti, soprattutto quelli che venivano da scuole della cintura periferica di Roma, avevano slogan più identitari, cioè ci siamo qui, c'è anche Pomezia, ci sono anche le scuole dei Castelli, e però quella prima di tutto era una cosa, credo, molto importante per loro, perché quello che mi ha colpito e che ho apprezzato tantissimo è che fossero veramente tutte le scuole di Pomezia, tutte le scuole dei Castelli, addirittura le scuole dei Castelli avevano lo striscione scuole dei Castelli, e quindi licei, istituti tecnici, istituti professionali, superando quella che è una divisione, una spaccatura che in provincia tradizionalmente è molto marcata, molto sentita, insomma, chi come me e come altri di noi ci ha lavorato, sappiamo quale diffidenza ispiri uno studente del liceo classico, del liceo scientifico, uno studente del professionale, e invece erano veramente insieme, manifestavano insieme, e questa è una cosa cosa, è un grandissimo risultato secondo me di questa mobilitazione, ma d'altra parte altri studenti e in parte anche gli stessi studenti di realtà periferiche mostravano di avere le idee molto chiare sulle motivazioni della mobilitazione e una determinazione e una serietà di intenti veramente che mi ha colpito, e gli slogan che tornavano erano slogan relativi alla Prea e a quello che significa a livello di possibilità di accedere alla partecipazione democratica la legge Aprea, anzi di taglio delle possibilità di accedere alla partecipazione democratica, tanto per parlare di tagli, e poi gli slogan continui e ripetuti sul futuro e sul furto del futuro che questa generazione sta subendo. E in quest'ottica io credo veramente che i colleghi che si oppongono in maniera diciamo determinata alle occupazioni o che ritengono di dover trasformare uno strumento di lotta che è proprio degli studenti e sul quale forse noi non dovremmo esprimerci, ritengono di poterlo trasformare in una cogestione in cui loro indirizzano, in cui loro spiegano, in cui loro fanno il pensiero degli studenti, io credo che questi colleghi dovrebbero interrogarsi su quelle che sono le motivazioni e le condizioni di vita di questi ragazzi e la prospettiva di vita che questi ragazzi avvertono a Roma, certo, e anche e soprattutto nelle periferie dove le aziende in crisi sono tante, come è stato detto, i licenziamenti sono tanti, le condizioni materiali della vita e della scuola non sono quelle di Via Giulia, tanto per tornare al parallelo con le scuole del centro di Roma. Sì, c'è questo paradosso che adesso che pare, forse, chissà, le 24 ore frontali, c'è la marcia indietro, ma chissà, siano gli studenti, no? Più preparati e più attenti su quello che la scuola sta per diventare, la privatizzazione, appunto la ex Aprea, gli spazi democratici all'interno delle scuole. E noi docenti? Cosa facciamo? Forse ci siamo abituati, abbiamo mandato avanti i soliti estremisti, hanno scioperato, hanno manifestato, hanno coinvolto gli studenti e dopo adesso si tirano indietro, sia se c'è una, appunto, una occupazione da parte degli studenti oppure altre forme. Ci tiriamo indietro, quasi che ci interessi molto meno o comunque poco il fatto di avere dei consigli di istituto in cui la voce dei docenti sia forte, e non avere privati che possano, magari anche in silenzio, no? Perché non hanno diritto di parola o di voto per ora, indirizzare addirittura, no? Le finalità, stabilire le finalità educative delle singole scuole, dare lo statuto per ogni scuola, cioè cose gravissime. Gli studenti sono più attenti a questo. E quindi mi viene, come dire, un po' di tristezza pensare che in questi anni cosa abbiamo fatto noi con gli studenti. Ci siamo accontentati di dare quei 3 giorni di attività didattica alternativa, no? Così viene chiamata in molte scuole, e non vi facciamo occupare, non vi facciamo agitare, e facciamo una cosa insieme, magari organizziamo qualche lezioncina o qualche karaoke o qualche corso di chitarra, ripeto, rispettabili. Però basta, soltanto per il quieto vivere, soltanto per come dire, concedere questa forma di libertà che in realtà non è vuota. E quindi io, come dire, sono molto preoccupato, perché la reazione dei docenti, adesso la vedremo forse sabato, non so, che è una manifestazione indetta da tutti i sindacati, non so se vogliamo parlarne, e poi vediamo con quali slogan, no? Con quali contenuti questa manifestazione verrà fatta. Sì, la reazione dei docenti forse la stiamo vedendo già adesso, almeno in alcune scuole, almeno in alcuni collegi docenti che si affrettano a recedere da quelle forme di mobilitazione che avevano intrapreso, che si affrettano, parlo di alcuni collegi dei docenti, a riadottare POF che erano stati in qualche maniera congelati, abbandonati, sospesi e così via. Questo mi sembra un fenomeno piuttosto, diciamo, percepibile già adesso. E questo, diciamo, a livello di reazione dei docenti, e questa reazione in qualche misura riposa su una scarsa consapevolezza di quella che era la piattaforma di rivendicazioni delle mobilitazioni, perché quello che si sente dire nelle scuole: beh, ma adesso abbiamo avuto quello che volevamo e che cos'altro dobbiamo fare? E quelle stesse manifestazioni, che erano semplicemente il recedere da forme assolutamente facoltative, quali viaggi di istruzione e così via, sembrano in qualche modo una forma estremistica di lotta. Ci siamo riusciti, anzi ci è riuscito lui per la verità, finalmente a entrare in contatto con uno degli studenti che, oltre a occupare una qualche scuola, sta preparando l'assemblea che si aprirà tra 45 minuti. Pronto, mi senti? Ti sento male, provo a spostarmi, dammi solo 30 secondi. Arrivo. Sì, ti mando 30 secondi, stiamo parlando appunto con uno studente per entrare appunto per cominciare a parlare della manifestazione che ci sarà sabato prossimo, soprattutto dell'assemblea che ci sarà alle 17.30 al liceo Sasso. Pronto, occupato. Adesso mi senti? Adesso ti sento bene, sì, sono all'aperto, il telefono prende meglio. Ok, se... Niente, stavo dicendo che volevamo parlare con te di questa assemblea che tra poco si aprirà al liceo Sasso Occupato. Sì, certo. Dunque, l'assemblea è nata dopo un incontro tra le realtà che avevano costruito il 14 novembre, due giorni dopo che si sono incontrate per ragionare come rilanciare il movimento, nel senso che l'analisi un po' di tutte le strutture è stata che le azioni di violenza da parte delle forze dell'ordine in piazza abbiano puntato e mirato a sfaldare l'unione tra le diverse componenti che avevano composto la piazza e anche a spaventare gli studenti, soprattutto quelli che erano la maggior parte della piazza, gli studenti medi, e perciò è molto importante che si rilanci subito il movimento per non dargli la vinta. Io mi posso permettere di dire, per la situazione che vivo nella scuola, che sicuramente già una risposta forte è arrivata, tant'è che il giorno dopo almeno una decina di scuole si sono aggiunte alla lunga lista di scuole occupate e autogestite proprio in risposta alla repressione. Ancora questa settimana si stanno continuando ad occupare scuole, perciò questa assemblea di oggi al TAS alle 5:30 è proprio un'assemblea pubblica tra le diverse componenti che avevano composto la piazza per ragionare sulla prossima mobilitazione, che dovrebbe essere quella della giornata del 24, in cui alcuni sindacati hanno già lanciato lo sciopero, e noi costruiremo una piazza con un percorso staccato per continuare un percorso di auto-organizzazione come le giornate scorse che abbiamo costruito. Niente, in sostanza questo. Matteo, vuoi raccontare a chi ci ascolta, visto che questa è una trasmissione di lavoratrici e lavoratori della scuola e che si rivolge anche a altri docenti e al personale ATA delle scuole, perché occupare? Che senso ha per una componente studentesca in lotta a occupare la scuola? Ma dunque, occupare è un atto di riappropriazione diretta e di spazi a livello pratico e anche a livello simbolico per quanto riguarda beni, cultura e quant'altro. Nell'atto dell'occupazione gli studenti si prendono la responsabilità di gestire la scuola e mostrano l'alternativa che propongono a una scuola che punta sempre di più al commercio dei saperi, più che uno scambio di idee e di conoscenza. Perciò la sostanza è questa: studenti che prendono in mano la situazione, che si assumono le loro responsabilità, che dimostrano la volontà di fare delle esperienze costruttive e che possano far crescere la persona all'interno di, appunto, di una situazione di socialità quale si forma durante un'occupazione. Senti Matteo, io ritengo come insegnante, perché è questo che faccio nella vita, che per gli insegnanti mobilitati in questo momento sia molto importante scendere in piazza con gli studenti, in questo momento in particolare scendere in piazza sabato prossimo con gli studenti. Tu ritieni che per gli studenti sia utile questa forma di politica portata avanti, non dico insieme, ma insomma trovare delle forme di convergenza e dei percorsi di lotta comuni con ovviamente una parte dei docenti e del personale ATA, perché non è che poi non è che poi siamo tutti uguali, ecco, nel posizionamento. Certo, ma io credo che sia non giusto ma fondamentale che si crei questa unione, anzi che si continui a coltivare questa unione. Credo che l'obiettivo, l'obiettivo delle forze dell'ordine, di chi gestiva le forze dell'ordine il 14 novembre, scusatemi, fosse proprio quello di sfaldare queste unioni che si stanno cominciando a creare tra le diverse componenti della scuola e dell'università. Più volte hanno cercato di metterci l'uno contro l'altro, e credo che sia proprio scavalcando questo meccanismo che si cerca di imporre dall'alto che si riesce a fare qualcosa di costruttivo. Perciò credo che assolutamente bisogna continuare a coltivare quest'unione, e sia l'unico modo per vincere. Senti, io ti faccio un'ultima domanda, non so se poi chi è qui con me ti vuol chiedere altro. Noi prima abbiamo fatto una riflessione, volevamo porre anche a te, cioè finché occupavano licei, diciamo, della periferia, della cintura, o anche tecnici professionali, come soprattutto a Ostia, dove è partita quest'anno la protesta, dove voi avete fatto anche un'assemblea nazionale, come dire, i media mainstream non hanno dato nessuna attenzione a questa cosa, mentre adesso sembrano attentissimi alle forme di mobilitazione degli unici licei che forse conoscono, cioè quelli dove vanno i loro figli, insomma sto parlando dei licei del centro di Roma. L'avete notata questa cosa? Ma sì, relativamente, perché poi per fortuna molti di noi fanno poco affidamento sui media stream, perché sappiamo ormai qual è la distorsione dell'informazione, però credo che, ma non so neanche dire, probabilmente fa più notizia vedere che il Virgilio piuttosto che il Tasso, che il Righi siano occupati, perché forse crea pure più consenso, perché si pensa che siano licei dove i ragazzi sono dei bravi ragazzi, o siano più colti che in altre scuole, senza poi dare retta alle occupazioni che invece sono partite dalla periferia, che secondo me in realtà sono molto più valide di altri licei. Probabilmente il movimento è nato dalla periferia quest'anno, perché la periferia è quella che sta risentendo di più di queste misure contro cui noi scendiamo in piazza. Probabilmente sono proprio le scuole di periferia che hanno gli intonaci dei tetti che cascano a pezzi letteralmente, sono proprio le scuole di periferia che non hanno spazio, eccetera eccetera eccetera. Bene, io penso che con questo possiamo ringraziarti, se qua non nessuno, e ripetiamo l'appuntamento, correggimi se sbaglio, è alle 5:30 al liceo Tasso occupato. Sì, e l'invito al liceo Tasso. Tutti e tutte invitate, è un'assemblea pubblica, che dicevi. Ok. Assolutamente. Grazie. Grazie a voi. Ciao ciao. Ciao, buona serata. E vorrei aggiungere che forse sono le scuole di periferia quelle che saranno colpite per prima, no? Dai tagli, e l'ingresso dei privati nelle scuole è evidente che porterà, ma molto rapidamente, no? Questa classifica, questa graduatoria delle scuole, sappiamo quali saranno le scuole di serie A e già sappiamo quelle che saranno le scuole di serie Z, e forse questo gli studenti l'hanno capito più dei docenti. Anche perché se una delle cose che insomma sono contenute nella ex legge Aprea è questo ingresso dei privati, si sostanzia anche nell'aumento, oppure nel, diciamo, una preponderanza nel bilancio dei contributi cosiddetti volontari, perché c'è una tassa scolastica che è abbastanza piuttosto bassa quando ci si iscrive a scuola, non dell'obbligo ovviamente, E una parte che è un contributo volontario, no, che c'è anche nelle scuole medie, no, mi sbaglio, non c'è, cioè nelle scuole medie inferiori intendo, magari non c'è la tassa scolastica statale, ma c'è il contributo volontario. E questo ovviamente c'è anche nelle scuole superiori. Allora questo contributo volontario ogni scuola già se lo calibra col suo bacino d'utenza. Quando questo diventerà una parte importante del bilancio della scuola, è evidente che poi quello che diceva Fabrizio diventerà sotto gli occhi di tutti. Quello che volevo dire rispetto a una cosa che ha detto lo studente prima, che le scuole di periferia cadono a pezzi, guardate che non è una cosa soltanto così che uno butta là perché se la immagina, perché nelle scuole del centro effettivamente, con tutti i problemi che hanno anche scuole che sono state costruite magari 120 anni fa e quindi hanno veramente una gestione che non ha più senso, soffitti alti 6 metri, non li riscaldi e non li raffreddi, ove mai qualcuno si ponesse il problema di raffreddarli, con grande disagio non solo per studenti e studentesse ma anche per chi ci lavora. E lì si fanno gli interventi, e come noi nella mia scuola c'è da 2 anni, appena entri c'è un cartello che dice fine lavori dicembre 2011, ogni volta la mattina che entro mi metto di buon umore a vedere questa cosa, mi sembra di stare in una macchina del tempo, e stanno ancora lì a rifare non vi dico che. Per cui è vera questa cosa, mentre poi sappiamo che nelle scuole di periferia, perché lo vediamo, per non parlare poi del sud, perché sono state inchieste giornalistiche veramente che sono nel mondo della scuola da tanti anni, mi hanno lasciato veramente di stucco, con situazioni inenarrabili, gente che per andare in un laboratorio esce da scuola, si fa 2 o 3 isolati e poi va da un'altra parte al laboratorio, insomma, quindi questo sicuramente. Ecco perché forse anche questa attenzione, insomma, a questo tipo di scuola, al di là delle battute o comunque anche delle cose reali dal punto di vista dell'estrazione sociale di studenti e studentesse, però c'è anche il fatto che, insomma, si guarda anche, ma come, abbiamo fatto tanto per voi e così adesso ci ricompensate. Sono le 16:57, stiamo per chiudere, vorrei chiarire solo una cosa perché forse siamo stati ambigui o comunque sfuggenti perché le davamo per scontate. Allora, lo sciopero è sabato prossimo è stato convocato dai sindacati confederali CGIL, CISL, UIL, Gilda, SNALS, UGL e anche COBAS. Come dire, a noi è stata una data, a mio parere, sbagliata quando è stata lanciata, nel senso, non sbagliata, dico sbagliata per i COBAS, ma per tutti gli altri è stata una data volutamente sbagliata, cioè una data quando è stato indetto dopo, sapendo che quella data sarebbe stata dopo la discussione della legge di stabilità che oggi è in discussione alla Camera, che probabilmente sarà votata prima di sabato, è stata indetta di sabato per non scomodare nessuno, le elementari sono chiuse, le medie sono chiuse, parte delle superiori sono chiuse, quindi è uno sciopero farsa, questo io lo vorrei dire almeno da parte di CGIL, CISL, UIL, Gilda, SNALS e UGL, uno sciopero che come piattaforma di queste organizzazioni ha praticamente niente, cioè la cancellazione delle 24 ore che ormai praticamente sono cancellate e lo sblocco degli scatti di stipendio e basta, non si cita nient'altro. C'è da dire che nel sito della Federazione della Conoscenza della CGIL il segretario nazionale Pantaleo parla di una manifestazione che si fa come sit-in, diciamo, a Piazza del Popolo per non disturbare il sabato pomeriggio. Se è dalle 10 alle 13 non si capisce quale sabato pomeriggio, poi che è il sabato pomeriggio cittadino, è il sabato pomeriggio dello shopping, delle passeggiate, non certo, so, sì, c'è un sacco di gente che lavora, ci mancherebbe altro, però sostanzialmente è veramente una buffonata un'affermazione del genere. Comunque vedremo cosa fanno i COBAS, ma per noi, per quanto ci riguarda in questo momento, invitiamo a partecipare alle manifestazioni organizzate dagli studenti, io userò il mio diritto allo sciopero per questo, insomma, per andare in piazza, non certo a fare la buffona a Piazza del Popolo. E detto questo vi salutiamo, vi invitiamo a ascoltare domani alle 17:15 Region Air, la trasmissione degli studenti medi, dove saprete le decisioni prese all'assemblea di oggi, per chi non ci può andare è tra mezz'ora al liceo Tasso occupato. Arrivederci. Arrivederci. Anzi, a risentirci.